Greco, città di Ussi, rosso modulazione cambio. Greco, rosso modulazione Ussi, schiaffa. Greco, Ussi modulazione cambio. Claudio Pedizella. Greco, cittadella di Pissi, modulazione, cambio. A gara la Iusu. Greco, per chi copia, cambio. Attenzione Ruscio, avanti. Greco, dall'alto piano di Ossi, rosso e modulazione, barra mobile, radio Vivaro, cambio. Non a dicere ancora nulla, ma Ossi, che gara gatti. Bobo. Ora attenzione 10, chi c'è sul 10? Attento 10, ora chiamate 10, ora attenzione 10, attento 10, chiamate sul 10. Ogni apparecchio. E beh Marco, chi c'era? C'è un altro col bip? Ah boh, io ho alzato il volume adesso, vabbè. Stavo mangiando, c'è un freddo in questa stanza, perciò io manco ci vengo a modulare. Era il calduccio in camera. Che domanda mi hai fatto? Chi c'era, chi altro c'era col bip? Beh, ho chiamato, ho detto, c'è qualcuno? Ho sentito portante, 9 più 15 e il bip. Eppure non ha risposto. Poi sei entrato tu un secondo dopo. Col bip, non c'era Luca dalla 25, Luca ci sei? Beh, non risponde, se lo chiamo Luca, non penso che... Magari il volume a zero non se ne è accorto, è capitato anche a me. Comunque, Robè, ho ordinato quella cosa, quella ricevitorino. Siccome interessa anche un'altra persona, no? Quando arriva... glielo faccio provare a casa sua, se ha un'antenna adatta, se gli piace glielo ordino anche a lui, capito? Purché lì riceva, perché se prendi solo QRM elettrico non ha senso. No, ti sto dicendo, c'è un'ottima ricezione, io nell'HF non l'ho sentito, l'ho provato così con la sua antennina, no, con l'antenna, siccome te l'hanno una a filare pure, sarà 3 metri, 3,50 metri di filare, nell'HF non l'ho provata con quell'antenna, però ti posso garantire nelle bande broadcasting, 87-108 è una bomba, ed è bello perché c'è anche l'indicatore del segnale ricevuto in decibel, e il rapporto segnale di subo, c'è una doppia scala, bella, e non è il classico ago, ti dà proprio il valore in decibel. Sì, esattamente dBU, decibel volt micro, la U di micro, no, quel simboletto. E a fianco c'è il rapporto segnale-rumore, DBSN, non mi ricordo, che non so cosa sia, vabbè. Comunque confermo, Robè, se tu hai visto la serigrafia, c'è anche serigrafata dietro, la batteria lunga, tipo torcia tattica, la famosa 18650 a litio, è sempre ricaricabile. un po' diverso dal tuo, cambiano anche i tasti. I tasti dei numeri sono, mi pare, ovali anziché quadrati. Però sostanzialmente, guarda, presumo anche dentro sia lo stesso apparecchio. Ok, interessava anche Natalino. Quindi al limite lo proviamo anche a casa sua, se lo soddisfa, toccato con mano e provato, glielo ordino anche a lui, che lo voleva. Io non ti posso garantire, è una bella radiolina, funziona che è una meraviglia, c'è una tecnologia rispetto ai vecchi ricevitori analogici, diciamo, quelli di vecchia generazione, molto ma molto, c'è un miglioramento spettacolare. Io la voglio provare con la sua, come si chiama, con l'ingresso dell'antenna, c'è un mini jack per l'antenna e collegarla all'antenna FM, quella diciamo la cosiddetta discona, dai, non è un discona, è la mia, è un altro tipo di antenna, voglio provare con quella come riceve certe frequenze. Voglio togliermi il dubbio, sei migliore dell'ICOM. Eia, ascolta, ma è una discone per HF, c'è una cosa per onde o discone, perché la discone bene o male è per frequenze V e U, a meno che non sia una cosa particolare, non so che antenne tu abbia, Rubè. Qua se li metti un'antenna risonante credo che sia il massimo della resa. Io usavo la Proxel Prox 1 della macchina col Texun e ti dico che avevi una ricezione fantastica, naturalmente propagazione permettendo, no? Certo, se proprio non c'è propagazione di segnale prendi poco o niente. E la mettevo con la base magnetica in macchina, è un'antenna da 1,70 m, 1,80 m anche, dipende perché banda la usi. Il veicolare ovviamente, quando andavo a produrre se me la portavo. E c'è quegli spinotti, no, per selezionare la banda, 80 metri, 40, 20, 15, eccetera, eccetera. No, vabbè, io ho un'antenna dedicata a 5 bande, per la fa da 1 a 30 MHz, quella grande di 8,60 m per gli HF, e poi ho questa antenna che fa da 25 a 1400, non so se sia della LM o di che cosa sia, adesso non me lo ricordo sinceramente, o forse della CTE, ma è una bomba quella antenna, c'è una ricezione, funziona anche in trasmissione dalle bande V, diciamo dai 30, dai 25 MHz in su la puoi utilizzare in trasmissione, e non dico che c'è un grande guadagno, però in ricezione funziona discretamente, è una bella antenna, non è come la discona che c'ha un sacco di buchi, di cose, questa l'hanno adattata bene, poi tutto è in acciaio inox, il piantone in cosa, in ottone cromato, tutte le viterie, tutti gli stili sono tutti in acciaio inox e poi è accordabile, c'ha uno stilo allungabile, il centrale lo puoi accordare, anzi non è il centrale, è un radiale si accorda, sto dicendo fesserie. No, avevo preso la GBC, ti posso dire, avevo confrontato tante antenne, ma con quelle prestazioni non ce n'erano, così larghe come cosa, perché è un'antenna strana, c'ha un po' di misure, c'è per dire, vedi, certi elementi che sono più lunghi, altri più corti, un'altra allungabile, cioè è fatta in un modo particolare. Poi la CTE a livello di antenne fa delle belle cose, costruisce anche apparecchiature broadcasting di alti livelli, dai, perché fa parte del gruppo, almeno faceva parte del gruppo Rohde Schwarz, non so se esiste ancora, per cui molta tecnologia ingegneristica, i tecnici qualcosa l'hanno messo anche su quel tipo di antenne, avevano inventato quella discona, non so se ti ricordi, quella con i dischi che si chiamava, noi la chiamavamo discona volgarmente, che c'ha dei dischi a salire, a scalare, tipo albero di Natale, quella era un'antenna rivoluzionaria per l'epoca, solo c'era Luca Flippa e lui l'aveva provata in terrazzino, non è che funzionava, l'avrei voluta provare io in condizioni ottimali di posizionamento. Sì, quella con i vari dischi, io la definivo antenna marziana, perché è veramente marziano l'aspetto, aspetta, il nome era, ma lo sai che quell'antenna l'ho vista da un venditore italiano, cioè l'ha inserita sul catalogo, sul sito, o è una rimanenza di magazzino, oppure è un sito imbroglio. Io non ci ho mai comprato, però c'è un po' di roba di radio, di elettronica, però il nome non me la ricordo, Pagoda. Hai detto bene, Pagoda. Allora, quell'antenna io l'ho vista dal vivo, prima di comprarmi la Mantova, mi stavo comprando quella lì, alla fine ho preso la Mantova, ma tu devi vedere la costruzione, a parte l'alluminio, non è come il classico alluminio di tutte le antenne liscio, questo qua rimane rigato, l'alluminio è un tipo di materiale particolare, molto, molto robusto come costruzione, e poi c'ha questi dischi piatti, tipo dischi di, come possono essere un disco di giradischi, dai, sono un materiale particolare, non è neanche alluminio, qualche lega deve essere, essere tipo rame, non so cosa ci abbiano messo in mezzo, ma come prestazioni almeno dichiarate eccellente quell'antenna. E poi c'è di buono, potete mettere almeno a 3 metri d'altezza dal punto più basso del palazzo. Eia. Poi come antenna mi stava piacendo questa loop magnetica che costa 40 euro, no? C'è il solito cerchio, l'elementatore, poi quel circuitino alla base. Solo che hanno detto scordatevi di usarla dentro casa, quella è un'antenna che mi ha messa sul tetto, in casa prendete solo rumore. E quindi siamo lì, intanto vale usare la 5 ottavi per ricevere. C'ho anche l'adattatore da PL femmina a jack 3.5, dal Texun ce l'ho ancora, capito Robè? Ok, però Marco, io adesso devo andare via, che devo fare cosa, dai, avrò modo di sentirci magari tanto domani, sabato, domenica, è brutto tempo, magari ci sarà più tempo per parlare e fare delle belle chiacchierate, soprattutto quando si parla di discorsi di antenne ci riesce a scambiare un po' delle informazioni, dai. Ci sentiamo nel prossimo video, dai, ti auguro un buon proseguo di serata e io vado via, che devo fare cosa. Ciao ciao anche eventuali amici qua sul canale 10, ciao ciao. Via, ciao Robè, buona serata, buon tutto, ciao ciao. Nessuno? Luca? Sì, avanti, buonasera. E allora, cosa mi dici? Sì, non ho copiato il tuo nominativo. Danilo? Ciao Danilo, buonasera, California, da quelli. Sto facendo una prova a radio, fammi sapere come sto uscendo, California. Ci sono qua, alla via Cabiona. E di radio? Ah, la radio è buona. Grazie. E a me non vedi a tutti in quelle zone. Anche tu, Radio 5, segnale un pochino basso, però ti prendo bene, ti sento molto bene. Dove nasci, Dani? Sant'Orsola Nord, sotto. Va bene, io sto pilotando con un cielo perfetto. Dimmi una differenza tra questa radio e questa che adesso accenderò. Prova. Con questa. Era meglio l'altra, Dani, ti posso. Non t'ho capito, cos'è che mi hai detto? Ho detto che era meglio l'altra. Dici? Sicuro? Una conferma mi devi dare. Cosa fa più forte da narrare? L'altra si fa. Ah, questa è più forte. Vabbè. Perché adesso sto usando il 7000, poco fa ero col Galaxy. No, cosa dammi? Cosa capisci? E con questa qua sto modulando con 5 watt, non è che sto modulando con che cosa. Invece l'altra è 10 watt originali. Sei amico se non con 10 watt, 5 watt, 10 modulati, è già un attimino che tanto non posso stare meglio. Ah! No, comunque con questa radio ti prendo a 9.10 radio 5. Sì, sto usando una alla 68, praticamente con MDP4. L'MVP4 già spinge anche lui, da. Solo che c'è un problema ogni tanto praticamente nel prima, sicuramente la pulizia. Con un pochino di aria devi soffiarlo. Ok, dai, grazie per adesso, già ci sentiamo un altro momento. Ciao! Ciao Dani, ti ciao ciao! Ciao! Giulio, abbi fede. Sì, ciao, ciao Marco. Ciao Giulio, mamma mia, che giornate da lupi, e quindi un po' infreddolito così, non c'è manco un'anima. Ho salutato Roberto prima e boh, è entrato ma c'aveva roba da fare. Poi sono 36, due passaggi, eia, è un ventaccio che non ti dico, è pericoloso per le antenne pure. Sì, lo so. Io sono salito 3 volte qua, ho acceso 3 volte e non c'era nessuno, allora ho spento di nuovo, adesso sono risalito e ti sei affacciato tu, visto che ho fatto un paio di colpi importanti. Figa, ma certe volte, non sempre, ma certe volte ti riconosco dalla, dal fischio, dalla qualità della modulazione, dallo stacco, che ne so, forse anche la segnale, 9 più 15. Ehi, è così. Per il resto non sono soddisfatto, in generale, di tutto. Di tutto, né di salute né di situazione attuale, poi adesso ci tolgono anche il Natale con i parenti e anche il Capodanno, mi sa. Bello, bello il 2020, proprio. È una meraviglia, per carità. Una cosa incredibile, grazie. Sembra che sia per arrivare alla fine del mondo. A questo punto siamo già un anno con questo accidente del virus che non si riesce a debellarlo, grazie. E chissà quanto durerà ancora. Speriamo che sparisca in fretta. Avanti Gianni. Buonasera a todos, lo so, purtroppo è così Giulio, quest'anno, se per debellarlo e per non pensarci più, dai, è meglio che sia così e dopo non ci pensiamo più. Speriamo che valga qualche cosa questa situazione perché non si debbo più. A me mi sta succedendo una cosa, con la mascherina mi viene tachicardia, battiti forti al cuore. E mi dà una sensazione di, boh, di non tipo un'ansia. Pure a me Gianni. Sicuramente la respirazione non è libera, con la mascherina è chiaro che c'è un po' di difficoltà a respirare in maniera completa, diciamo così, per cui è chiaro che soprattutto quando uno cammina con un passo un pochino svelto, è chiaro che il fiatone ti viene, ma che cosa ci vuoi fare? Purtroppo bisogna portarla, almeno riusciremo prima o poi a eliminare questa situazione. Colpa io comunque di tanti incoscienti che ci sono, tantissimi incoscienti ci sono, per carità. Vai Marco. Sì, aspetta che ho lasciato lo stacco per vedere se, per lasciare un po' di bianco, già ti volevo dire, quello è perché con questo cavolo di mascherine, dipende anche da come è fatta la mascherina, gran parte dell'anidride carbonica che buttiamo fuori ce la riassorbiamo, quindi la respirazione non è bella ricca di ossigeno come quando siamo a bocca scoperta. Perciò il sangue riceve meno ossigeno e batte più velocemente per compensare. E quando io sono con la spesa in salita, di ritorno con roba, con pacchi, con buste, a me viene l'affanno, ma per non dire, come hai detto tu, quasi uno stato di ansia, mi devo abbassare la mascherina e respirare, perché mi prende quasi l'ansia. Sì, ansia, è il cuore a mille, esatto. E anche a me è fatto così, l'altro giorno l'ho dovuta staccare per un po' e non abbassare ma staccarlo un po' dal viso, respirare un po' e poi mi sono ripreso. E sicuramente era dovuto proprio alla mal respirazione che hai con la mascherina. E ve ne racconto una, a proposito di gente che se ne frega. Mia sorella mi ha telefonato stamattina, sta cambiando alcune cose in cucina, si sta restaurando diciamo tutta la cucina, ha chiamato un falegname, sta cambiando le cerniere eccetera eccetera e si sta cambiando il frigorifero, gli hanno praticamente indicato questo signore che ha la moto carrozzella però non c'ha telefono e è andata a casa sua, gli ha suonato il campanello, l'ha fatta entrare, gli ha detto sì signora non c'è problema, questo e quell'altro. Arriva a casa, mia sorella comincia a sentirsi strana, mal di testa, tachicardia, ha chiamato la dottoressa e adesso stasera l'ha mandata a fare il tampone perché quello lì, pur sapendo di avere coronavirus, l'ha fatto entrare in casa, capito, questo bastardo. E quando gli ha telefonato per dirgli che era un gran delinquente, l'ha mandata in quel paese, capito? Ha avuto anche il coraggio di mandare, ha detto denuncialo, molto ci vuole. Quel tipo lì è da denunciare, perché evidentemente lui che sapeva che aveva il contatto, cioè che era un tore, chiaramente non so cosa fare questo. Ma qui a Sassari o Gianni? No, a Porto Torres. Praticamente mia sorella ha la stessa dottoressa di questo qua, e la dottoressa lo sa di sicuro, capito? Quindi gli ha detto la volata a fare il tampone subito, urgentemente. Buonasera. Ciao Claudio, buonasera anche a te, dai. Per dirti, i delinquenti che esistono in giro. Quello è un incosciente, quello è da denunciare subito, anzi è da arrestare direttamente, perché non è possibile che una persona possa essere così incosciente, disgraziata. A parte il fatto che, sapendo che sei contagiato, grazie, che puoi contagiare gli altri, non deve nemmeno uscire, per cui si dovrebbe stare in quarantena. Ma è disgraziato, per carità. È quello che ti sto dicendo Gianni, c'è un'incoscienza assurda, guarda, veramente. Io capisco che l'economia sia un po' fermata, questo sì, d'accordo, però non puoi tu far prevalere l'economia sulla salute. La salute prima deve prevalere sull'economia, perché senza salute non c'è nemmeno economia. Avanti Claudio, buonasera. Buonasera a tutti, dai, c'ho qualche passaggino. Io ho mia moglie stamattina alle 7.10 all'ospedale, ancora non l'hanno rimessa, l'hanno operata stamattina. E quindi sono in attesa. Adesso dobbiamo fare la visita ai medici, poi l'abbiamo già fatta alle 7, adesso aspetto se posso andare a prenderla o meno. E un bel delinquente ci sono, ma credetemi che io esco un'ora la mattina, proprio voglio un'ora, nessuno mi può togliere quell'oretta, perché io porto il cane, mi fumo una sigaretta da solo nel mio giardino, senza nessuno in mezzo ai piedi, con la mia mascherina. Ma quello che è vero fuori è nel bar vicino a casa mia, è una cosa allucinante, capito? È una cosa, mica lo stanno rispettando questa cosa che non si può fumare nella porta del bar, non sta rispettando niente nessuno, la mattina sono tutti ammontonati, dopo il caffè si prendono tutti gli amici lì e si mettono a fumare, capito? Quindi o questa cosa la prendiamo veramente sotto braccio, altrimenti rimarremo vita natural durante così, capito? Avanti Marco. Io tutti i giorni lo vedo, sia al centro sia anche in zona. Com'era anche vero che qua ci sono sempre stati i furbetti del quartierino, che durante il lockdown, quello brutto, ci portavano sempre gente a casa a bere e a mangiare, capito? E li sentivi festeggiando e consovigliando come se niente fosse. E noi siamo in questa situazione anche per queste persone, però a me di fare il delatore, di andare a fare la spia non mi va. Aspetta, riprendi già un attimo che vado a bere, c'ho la gola un po' secca. Quella non è fare la spia, che ho parlato con l'unità, perché se si contagiano, il contagio può arrivare anche a te, non è che... quello è il problema, che poi si distribuisce il contagio e non riusciamo più. Vabbè, comunque, in ogni caso io ho chiamato, ti dico la verità, perché di fronte a casa mia, quando c'era lockdown, c'erano dei ragazzi che stavano suonando la chitarra, cantando tutti in greffa, senza mascherina e senza nulla. Li ho chiamati i vigili e non ci sono venuti. E avranno avuto altre chiamate, altra roba da fare. Questa volta sembra fatta apposta, no? Che quando chiami non vengono, hanno caso strano sempre le pattuglie impegnate e poi magari li vedi fermi così, fermi da una parte senza far nulla, come un certo episodio anche a Sassari, capito? Vabbè, non ve lo spiego perché non va bene. Abbiamo le macchine impegnate, uno che era a Piazza dei Segni, che avevo contattato, dice ma se sono qua, sono 10 minuti al bar, dove sono impegnate le pattuglie? Non dico di quale corpo, ma è successo tanti anni fa, per dire, che non era fatti nulla. Se non è una cosa gravissima o comunque che ricevano numerose chiamate, manco le fanno muovere le pattuglie. Lasciamo perdere. Qualcuno ha sentito anche di peggio, mi. tipo di non muoversi finché non era finito tutto, per evitare rischi, capito? Mentre si consumava una, non so che tipo di reato, di intervenire subito dopo, capito? Però voci di corridoio, quindi bisogna prendere con le pinze. Ehi, mi dispiace per il Capodanno e per il Natale, che benché i parenti siano serpenti, però almeno si faceva qualcosa di diverso, invece adesso ce ne dobbiamo stare tappati a casa, bello, bella roba proprio. Vai Giulio. Ok, sì, beh certo Marco. Guarda, quest'anno abbiamo rinunciato ai candelieri, per cui si può anche rinunciare al Natale. È inutile stare lì a girarsi intorno, è inutile, bisogna fare le persone serie, se non facciamo noi stessi le persone serie, questa storia non finirà mai, perché non è possibile continuare in questo modo, è perché a discapito di tutto, non solamente della salute, ma anche dell'economia in generale, perché è ovvio, tu basta pensare quante aziende hanno chiuso già sempre per il fatto del Covid, perché sono stati costretti a chiudere, giustamente per vari motivi, un po' per per il governo, per il DCPM che dice il governo, tante cretinate che dicono alle volte, cioè loro non dovevano permettere in una maniera più assoluta, intanto le vacanze dell'estate hanno rovinato completamente e sono convinto che se continua così non solo la seconda ondata, ma ci sarà anche la terza e poi la quarta, perché non è possibile che si possa amministrare in questo modo una nazione. Sono degli incapaci, per me sono degli incapaci, assolutamente, guarda. Io capisco che la gente deve lavorare, certo che deve lavorare la gente, però se continuiamo così non lavorerà mai, invece fai un sacrificio per un po' di tempo, che so io, un mese di seguito, finisce lì e basta, invece no, continuando così, rattoppando di giorno in giorno, passano gli anni, ne sono più che convinto. Avanti Claudio. Una cosa che dice una truffa sicuramente in giro, ma non te ne accorgi che anche lì si stanno scannando fra di loro perché può lanciare prima il vaccino e poi magari bisogna vedere se è anche efficiente questo vaccino, se è valido, ma sarà. Comunque vai Claudio. Vabbè, così è, vabbè, comunque guarda che intanto non ho fatto niente, perché o non permettevano da adesso sino al 6 gennaio le restrizioni che già ci sono. È assurdo che tu dal 21 di gennaio, cioè dal 21 di dicembre al 7 di gennaio hai fatto le restrizioni. Allora io sono a Milano, ho la casa a Porto Cervo, sono a Torino, ho la casa a Porto Cervo, parto questa settimana, capito? Le partenze tutte questa settimana, ecco lì che arriva un'altra fiondata magari di gente che ha già per dire fatto il vaccino, o cioè fatto il tampone, qualcuno che non l'ha fatto, qualcuno ha, come è già successo, l'autocertificazione fagiulla, ecco lì che riparte tutto. Allora cosa serve? Dico io, cosa serve? Fare una restrizione, cioè, non serve a niente. Il lockdown deve essere per tutte le regioni, tutti sei a casa tua e io mi sto a casa mia, io non posso venire da te, tu non puoi venire da me, ok? A meno che non ci sia qualcuno che lavora fuori, ok, e che abita naturalmente lavorando fuori alla casa fuori e sia residente a Sassari, residenza a Sassari e domicilio a Sassari, allora le autorizzo lo spostamento. Ma chi si continentali? Scusatemi di dire, ma cosa cazzo vi vengono a fare in hobby se c'è il Covid? Cosa vengono a fare? A impettare di nuovo la Sardegna che poi hanno dato la colpa a noi? Questa è la vera cosa, capito? Proprio come hai detto tu, il governo sta rattoppando, non sta facendo assolutamente niente. La restrizione deve essere totale per tutti, nessun movimento, né è per la Sardegna, né è per l'Italia, da nessuna parte, ti devi rimanere a casa tua. Guarda Claudio, secondo me il governo avrebbe dovuto fare una cosa del genere. Tu il 21 non parti, perché? Perché intanto se parti rimani per strada, per il semplice motivo che io ti confisco la seconda casa. Momentaneamente avrebbe dovuto confiscarle tutte le seconde case, perché tu non puoi permettere dal 21 in poi di essere coprifuoco, non puoi viaggiare, però io vado il 20 vado alla seconda casa, per cui come stai dicendo tu il discorso non finisce mai, non finirà mai nella maniera più assoluta. Io dico che si stanno preparando la strada per farsi il Natale loro, questi gabbizzoni, questa gentaglia, perché per me questa è gentaglia che mette prevalenza ai soldi e alle vacanze anziché alla salute. Ma non è possibile, guarda, non è possibile nella maniera più assoluta. Sono degli incoscienti nel vero senso della parola, a tutti i livelli, ma veramente a tutti i livelli. La seconda casa avrebbe dovuto confiscarla, tu adesso, fin quando non finisce la pandemia, tu avrai la seconda casa confiscata, devi essere secco e presto rimanere in quella casa dove c'è la residenza, non dove puoi fare le vacanze, perché così non fai altro che incentivare la pandemia. Vergognoso, ragazzi, per carità, sono degli incapaci, te l'ho detto qua, sono degli incapaci, non sanno amministrare. Vai Gianni. Vabbè. Bisogna dare anche ragione a te in questa cosa, perché da quando sono venuti qua in Sardegna hanno fatto casino, discoteche, questo e quell'altro, hanno aperto locali e hanno ripopolato il virus, cazzo. Una via di uno di contagio a Sassari, a Vacca se siamo non so quanto, ci sono stati anche molti, poi mia sorella mi stava dicendo che anche un bambino di pochi mesi è stato contagiato, 6 mesi mi pare che avesse. Infatti in questi giorni, il giorno 1 di questo mese, è morta anche la sorella di un mio cognato, sempre per coronavirus, una donna di 74 anni. Non è possibile la città, non è possibile, guarda, non se ne esce più. Ma comunque, sapranno loro cosa devono fare. Io, ripeto, cerco di rimanere il più possibile a casa, ecco, solo ed esclusivamente quando sono strettamente costretto ad uscire, tipo per dire, non so, andare a fare la visita che devo fare periodicamente, o al massimo andarmi a prendere la pensione, basta. Queste sono le uniche uscite che faccio io, poi rimango sempre a casa. Tu mi dirai, ma ti annoi? Certo che mi annoio, come tutti, però bisogna resistere, bisogna resistere. Non possiamo essere incoscienti e andare per strada così, perché anche se hai la mascherina non si può mai dire, non ci vuole niente, tu tocchi una cosa dove prima l'ha toccato uno che aveva il contagio e ti ha lasciato la traccia lì, ti tocchi gli occhi o ti tocchi la bocca e avvertitamente anche se hai la mascherina ci cadi, ecco, ti rimani contagiato, purtroppo è così, bisogna stare molto ma molto attenti, ma intanto gli incoscienti non lo vogliono capire. Vai Marco. Via. Poi questi vaccini saranno un business, se ne stanno uscendo da tutte le nazionalità, secondo me faranno a gara chi, magari poi acqua distillata, tu non lo saprai mai. Poi mi chiedo se funzioni solo per un ceppo del virus, se ci sono mutazioni non ti immunizza. Già questo virus è strano, ti dà una parziale immunità, no? Cioè te lo prendi una volta e non diventi immune, ti puoi riammalare una seconda volta e forse una terza. E quindi come fa il vaccino, che dovrebbe essere derivato sempre dal virus o da quelle sue proteine, a immunizzare? Come fa a immunizzare? Non lo so, è una cosa molto... Loro dicono, vabbè, che adesso non sarà obbligatorio. Poi inizieranno le minaccette, cioè, vabbè, non è obbligatorio, però se tu non lo fai, che ne so, non entri al posto di lavoro, non puoi entrare i figli a scuola, quelle cose lì, capito? Perché secondo me non è roba nemmeno sana. cioè ci vogliono sì mesi o anni per fare sperimentazione umana. Qua stanno uscendo vaccini, ma già da 6 mesi che stanno uscendo vaccini, adesso la manca, con la bacchetta magica li hanno avuti. Oppure lo sapevano da molto molto prima, questa è una cosa che c'era da molto molto prima, e non hanno detto niente, anziché metterci già in guardia, no, e darci modo di prendere contromisure. D'altro non so che dire. Boh, già ne riprendi. Scusate che sono al telefono, dai, proseguite, scusatemi. Infatti stavo per lanciarti, vabbè, appena che smetti siamo qua. Sì, oh Marco, ma non guarda, cose assurde, anche il fatto della scuola, io non capisco tutta questa bramosia di poter rientrare a scuola, io questo non lo capisco veramente, guarda. Ma se si perdeva un anno a scuola non sarebbe stata la fine del mondo. Ma quando mai? Tanti studenti che non studiano e ne perdono più di uno, più di due, anche più di tre di anni scolastici. E tu per questo motivo non blocchi la scuola, invece di fai andare queste ragazze a scuola, anche ragazzini piccolini contagiati, ma non è possibile. Poi dicono che i bambini non vengono contagiati. Anche oggi ho letto sul giornale una bambina o un bambino che fosse 7 mesi contagiato di coronavirus. Ma quando mai? Ma come si fa ad essere così incoscienti? C'è l'istruzione. Ma l'istruzione, non ci sono dubbi, è importantissima, questo lo sappiamo. Chi è che ti dice di no? Ma tu non puoi assolutamente creare questo o questo macello che c'è anche a scuola, che ci sono stati decine e decine, centinaia di contagi ci sono stati in tutta Italia fra gli studenti. E tutto questo cosa comporta? Chi è che si prende la responsabilità di questi contagi che hanno avuto i ragazzi? Poi tu basta pensare, l'altro giorno ho sentito su 60 bambini in una scuola solo 20 ci vanno e gli altri tutti a casa, perché? Perché i genitori hanno paura di mandarli. Ma è giusto che sia così, è chiaro che la paura c'è di andare a scuola, non puoi tu buttare i figli così per strada, perché tutto sommato li stai buttando per strada. Dice, ma ci sono i genitori che lavorano. D'accordo, ci saranno anche i genitori che lavorano. Se tu sei una persona che vuole bene ai tuoi figli, prenditi qualcuno che possa badare ai tuoi figli, se proprio vuoi andare a lavorare, se no rimane secca e pesta, anche a costo di perdere il lavoro, perché in una famiglia può lavorare solo un uomo e la donna può rimanere a casa. Invece l'egoismo anche di quello, devono essere tutti quanti indipendenti, e poi lo vediamo cosa fanno, che poi alla fin fine, quando la donna diventa indipendente, succede anche che si separano, perché sai, anch'io sono una persona che so contribuire in famiglia, aspetta, e allora iniziano le vestisci e si separano anche fra coniugi. Una vergogna. Gianni, sei rientrato? Mi ero stato per andare in bagno, ma mi ha beccato proprio quel momento. Lo so, vabbè, ci sono dei casi e dei casi, perché ci sono famiglie magari che pagano il mutuo e hanno bisogno di lavorare in due, perché con uno lo stipendio a pagare il mutuo e con l'altro campano. Ci sono anche situazioni, io per dire ho fatto così, abbiamo lavorato in due e con uno abbiamo pagato il mutuo e con l'altro campevamo, fino a quando abbiamo finito di pagarlo. Gianni, è arrivato il momento di fare sacrificio un po' per tutti, è inutile stare lì, bisogna lasciare tutti gli stravizi, bisogna lasciare, perché intanto il governo sta pensando alla patrimoniale, pensa un po' cosa sta pensando, quest'altro disgraziato di governo, anziché pensare, grazie al coronavirus che sta distruggendo gli italiani, sta pensando anche addirittura di mettere la patrimoniale. Sai cosa vuol dire mettere la patrimoniale? Che possono mettere le mani sul tuo conto corrente, non hai capito qual è il discorso, Gianni? Oltre al fatto che ti dassero la prima casa anche, o tutte le case che uno ha, ma non è possibile, guarda, non è possibile. Abbiamo un'amministrazione che fa veramente schifo. Vai Marco. Sì, sta andando tutto a peggiorare, come sempre. mi pare l'unica cosa pignorabile, cosa poteva essere la casa di abitazione, non mi ricordo, c'era una cosa che non mi ricordo se era lo stipendio, insomma il conto o quello che era, la casa che non poteva essere pignorabile in caso di debiti, ma vedrai che faranno di tutto per rendere tutto pignorabile, tutto. Quello Stato è così, quando pretende i soldi li vuole subito, se non glieli dai ti rovina, però quando lo Stato deve dare a te passano decenni, anzi fanno di tutto per non dartene, soprattutto se uno è anziano, fanno passare anni e anni, così dicono, così questo schiatta e non gli dobbiamo niente. Sì, ma è così, ma lo sappiamo, è sempre stato così, il governo quando pagarti voi prova a lavorare e a servire gli enti pubblici, i soldi li vedi a maggior mai, già li vedi sì, però dopo anni, no, non è così che deve funzionare, invece se uno magari non paga le tasse poi vengono subito e ti sequestrano tutto quello che hai, è una vergogna, ragazzi, è una vergogna. Adesso in Sardegna si stanno mettendo in testa che vogliono svuotare anche l'edilizia, così fare colate di cemento anche a meno di 300 metri dalla spiaggia, dal mare, anche quello stanno pensando di fare, boh, le cose, guarda, dove è l'altro mondo, infatti c'è un articolo anche sul giornale di oggi al riguardo di quello, che vogliono fare tante di quelle cretinate, ma se avessero invece provveduto a mettere a mettere in sicurezza tutti gli argini, ad esempio tipo quella che è successa a Bitti, ad esempio, hai visto il casino che è successo? Avevano stanziato i soldi 7 anni fa e non hanno fatto mai niente, ma dove sono finiti i soldi che sono stati stanziati per mettere in sicurezza il paese? Boh, non si sa dove sono finiti. Tu mi dirai, avranno fatto altre cose? Sì, probabilmente hanno fatto altre cose, però avranno speso i soldi in cose meno importanti, probabilmente. È una vergogna proprio, guarda, non ne abbiamo gente capace di amministrare, non c'è niente da fare. Avanti Gianni. Non è qui che ne stanno liberando le vie principali, che c'è tutto il fango, le macchine rovinate, tutte le macchine che si ha portato via, non hai visto che viaggiavano come se fossero presi di carta le macchine? Guarda, è una vergogna, ma non hai visto adesso in questi giorni, alcuni giorni fa, che una settimana fa così, che era morto quel giocatore, quel Maradona, cosa è successo a Napoli? Ce n'erano poco di persone per strada facendo festa praticamente, perché ballando, cantando, dicono loro in omaggio alla memoria di Maradona. Ma cosa state dicendo? Intanto Maradona è morto perché è lui che si è distrutto, grandissimo giocatore, non ci sono dubbi, questo per me è stato il giocatore più forte di tutti i tempi, da quando io conosco il calcio, però si è autodistrutto da solo, perché con la vita che ha condotto, giustamente, tu mi dirai, ma uno sarà stato anche destinato, può essere anche che sarà così, che il destino l'ha portato a comportarsi in quel modo, però la sua vita se l'ha distrutta da solo. Non a caso proprio ieri hanno detto che la sua morte è stata dovuta a un cocktail di farmaci, si è stato operato da poco, un'operazione pericolosissima alla testa, e tu ti prendi anche una serie di pastiglie per fare che cosa? Oh Gianni, era un cocainomane, d'accordo, però è stato un uomo scorrettissimo per se stesso, sia ben chiaro, non ha fatto male a nessuno, si è fatto male da solo, però non va bene, e nonostante tutto lo hanno venerato, lo stanno venerando, addirittura lo stadio San Paolo, che è intitolato a San Paolo di Napoli, lo hanno scardinato e lo chiamano Stadio Maradona. Ma quando mai? Ma dove? Non è possibile, guarda, queste cose non sono accettabili assolutamente. Vai Marco. Vediamo se è rientrato Claudio dal telefono. No, continuate, dai, vi ringrazio che mi sto preparando per andare a ritirare mia moglie, dai. Ok, grazie delle due chiacchiere ragazzi, buona cena a tutti, ci sentiamo domani, ciao. Ciao Claudio, dai, fare l'auguri da parte mia. intanto Giulio, non è stato un buon esempio quello che ha fatto, non è stato di buon esempio, però a quanto pare lui è morto per la caduta che ha avuto, ha sbattuto la testa, gli si è formato un ematoma che ha dovuto operare e questa operazione è andata male. Sì, intanto saluto a Claudio, ciao Claudio, a domani. Sì, beh certo, vai Marco, saluta Claudio, poi riprendiamo. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai, buona serata, ci sentiamo domani, buon tutto. Dai, riprendete voi un attimino, che sto perdendo il coso. Quindi è stata un'operazione sbagliata, cioè un'operazione mal riuscita, chi l'ha detto? Gianni o Giulio? Il dottore, diciamo che è indagato, il dottore che aveva fatto l'operazione. Ma sai perché è indagato? Siccome è morto il pezzo grosso, capito, con i soldi indagano tutti, il giallo, adesso sta andando il giallo, chissà com'è morto, adesso diranno che l'hanno ammazzato tipo Marilyn Monroe, tipo Kennedy, me. Se moriva un pingo pallino qualsiasi, morto, sepolto, ciao, arrivederci. Quello c'è vero. E poi per quanto riguarda Napoli è una cosa, sembra che stiano festeggiando la sua morte, cazzo, invece che non è un modo di ricordare una persona, quello lì secondo me. A Napoli vabbè che fanno sempre festa per tutto, cazzo, addirittura c'erano i fuochi d'artificio. Ma c'è tutto a Napoli, lui, intanto lui era in mezzo alla Camorra, già ne hanno parlato in questi giorni in televisione, ne hanno parlato, che lui era stato coinvolto anche in fatto di Camorra, eccetera, per cui, poi devi pensare solo a questo, che ha 11 figli, 11, ne ha riconosciuto solo 5, ma non è mai possibile la fede che una persona di quel genere, un grandissimo campione, perché ripeto era il più grande campione che il calcio abbia mai avuto, per conto mio, anche meglio e più forte di Pelé, però non ci sono dubbi, però nella vita che ha condotto era proprio una vergogna, era una vergogna, nel vero senso della parola, l'ho visto in televisione, quanto sarà un mese e mezzo fa, ubriaco, fradicio, ballando a casa tua, se tu vedevi nemmeno un barbone, quindi che sarà per strada, tutto bello, ubriaco farebbe una cosa del genere, Gianni, guarda, Maradona si è distrutto, lo ripeto, non ha fatto mai nessuno. Una persona che ha fatto, anzi, ha fatto del bene in certi casi, però lui personalmente non si è voluto bene, io la penso così, poi il fatto che sia morto, lo ripeto, può essere anche un destino, per carità, nessuno lo mette in dubbio perché ognuno di noi il suo destino ce l'ha, però non si può festeggiare una persona e venerarlo così, addirittura grazie, tu vuoi scalzare San Paolo dallo stadio, il nome di San Paolo allo stadio, per mettere chi? Per mettere il nome di un cocainomane? No, non va bene, no, non lo accetto assolutamente io Gianni questo. Vai Marco. Eia. Vabbè, cocomane là, Gianni, cocomane. E io poi sì, con i seminar figli, se non voleva riconoscerli, bastava farsi la vasectomia, un'operazione cira piccolina, e puoi fare quello che vuoi senza rischi. Anzi è troppo che ne abbia già riconosciuti, quanti hai detto? 5. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. No, mi sembrava di aver sentito qualcuno. Vabbè, sì, purtroppo, cosa vuoi ti dica? Anche grandi, un grande giocatore, poi vabbè, per il resto, un po' troppi eccessi, ho capito, ma è come questi di Hollywood, come si chiamano, gli attori, ci sono attori cantanti, vanno a droghe, poi si rovinano da soli, cioè, più soldi hanno, più si rovinano, capito? Non riescono a fare una vita normale, comunque equilibrata. Vai Gianni. Allora, c'è stata Laura Pausini che praticamente ha fatto una critica, ha detto il giorno che si ricorda la violenza delle donne, dove sono state trucidate tante donne, eccetera, eccetera, è stato messo in primo piano una persona che non ha dato buon esempio a nessuno. Oh, l'hanno fatta beffa, ne hanno detto tutti i colori su Instagram, perché ha detto questa frase. Lui dice, io avrei messo in primo piano tutte le donne che sono state ammazzate, tutte le donne che sono state violentate, invece che mettere a lui che non è stato certo di buon esempio. Questo ha detto. Sì, sì, alla fine sì. Cosa ti dico? Per questi 7 anni che ha giocato lì a Napoli, in questi 7 anni ha vinto 2 campionati, Napoli, d'accordo, ecco, loro lo hanno venerato per questo motivo, perché il Napoli non aveva vinto mai niente, questi 2 campionati, però il campionato non è che l'ha vinto da solo, c'erano anche gli altri giocatori c'erano anche uno più forte dell'altro, sì, lui era sicuramente il più forte, non ci sono dubbi, questo lo riconosco, però un giocatore da solo non può vincere se non hai una squadra altrettanto attrezzata, con grandi campioni, con giocatori che ti facciano da supporto, perché se no non potrai mai vincere niente. Dunque non è vero la ragione per quale motivo lo debbano venerare così. Comunque sono contenti loro, ma le vedevo saltando, ballando, cantando, ma così si ricorda la memoria di una persona che muore. No, sono impazziti a Napoli, sono tutti impazziti per conto mio, guarda, dal primo sino all'ultimo, non è possibile, guarda. Però facciamo come credano, avanti Gianni. Diciamo che Maradona, quando era bravo come giocatore, quando prendeva il pallone non lo scartava nessuno, andava avanti sino a fare gol. E non c'era uno che riusciva a scartarlo, se li scartava tutti. Ho visto certe partite che hanno fatto vedere i televisori, cavolo, che era una saetta, era una saetta col pallone. Pensa se si fosse dopato durante la partita. Avete parlato in due, no, ma lì fanno i controlli già, non so se siano campione o come, ma se fosse stato bello cocainato, un missile sarebbe stato peggio che mai. Chi è che vuole entrare avanti? Ripeto, pace e bene a tutti, fate da bravi, saluti a tutti. Mi ha padre Gianfranco, mio padre Gianfranco. E allora Friuli, sento che c'era molta agitazione e comunque mi compiaccio che Don Giulio sia di nuovo in forma, più combattivo, è così che mi piace. Ciao Giafra, ben ascoltato, ma sai, però certe cose danno anche fastidio, io la verità, ripeto, l'ho detto e lo posso ripetere all'infinito, è stato un grandissimo giocatore, ma come uomo era una nullità assoluta, proprio nel vero senso della parola, incosciente con gli altri e con se stesso, all'infuori di qualche beneficenza che ha fatto, che quando faceva le partite e poi facevano gli incassi per beneficenza, lui per quanto ne so io veniva anche pagato per quella partita, poi bisogna vedere come, ad ogni modo, facciano come credono. Aspetta, ma te pare che tu scalzi San Paolo dal nome dello stadio per chiamarlo Maradona? Ma perché Maradona più importante di San Paolo è là? Non mi sembra assolutamente, nella maniera più assoluta, Gianfra. Poi di là, ma San Paolo non si può toccare, giustamente, come tutti i santi. Ma è una cosa assurda, guarda, è una cosa assurda. Va bene che a Napoli credevano in San Gennaro, adesso non credono più a quanto sembra in San Gennaro e credono in San Maradona. Ma no, dai, aiuto. Ma bisogna essere proprio degli imbecilli nel vero senso della parola. E la maggior parte dei napoletani sono tutti così, tutti indistintamente, guarda. Dai Marco. E i pastori credono in Sanzone. Ciao. Oh, i santi, Gianfra, i santi già li tiro giù io quando mi capita qualcosa, certe volte anche il principale ci passa. Vai Antonio. Ragazzi, facciamo un ascolto piacevole, comunque vi ricordo il Santo dei Pastori e Sanzone. Io non l'ho sentito, Antonio, ci sei? Pappa, ti sento, ma non so se mi ascolti, che c'è un'antenna in terra. È in antennino, Giulio, ma addirittura che non arrivi mi pare strano, qua è 9.5, almeno 9.5, fai un passaggio, Antonio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, sì, 9 più 5 è spaccato, però conta che vabbè, lui ha le punti. Gianni, a te quanto arriva Antonio? Ehi, 8 sarà. Ma che è Antonio Riserva? No, Antonio, si può dire? Certo, si può dire. No, non lo sento, non lo sento, non c'è, no, non lo so se mi sente lui, ciao Antonio. Io no, non ti sento, eh. Vabbè, dai, comunque. Le prendi, Gianfra? Sì, io devo ritornare in convento, come sentite mi stanno chiamando, serve la mia opera. Pace bene a tutti, buona serata e buonanotte. Buonanotte, don Gianfra. Anch'io, tra un po' anch'io stacco. Per la cena, appunto. Purtroppo è così. No, Antonio Gode non lo sento assolutamente. Antonio Gode, se mi stai ascoltando, attrezzati come una volta, così almeno ti fai sentire anche da me. Avanti, Marco. No, qua il segnale è buono, pulito, pulitissimo, non ha corremme sotto, non ha fruscio. Però l'anima da dove lui ha, da dove sei tu che non arrivi? Ma tu Giulio hai antenna bassa per caso, oppure altri motivi, non lo so. No, io ho l'antenna a posto e sento tutti. Certo, se tu con un antennino, chiaramente qua non puoi arrivare, non è che posso arrivare tutti, no. Sento tutti indistintamente. Solo che lui con un antennino purtroppo non lo sento, come lo sento ad esempio quello che modulava dalle parti alte di Sassa, di lì nella zona di su, come si chiamava? Boh, Fabio mi sembra, non l'ho mai sentito. Perché? Perché usciva con l'antennino e con questa specie di portatile, credo, boh, non è mai arrivato qua, mai. Vabbè, comunque dai, non fa niente. Quando si metteva l'antenna, allora lo sentirò. Avanti Gianni. Antonello Culattello si chiama. No, forse si riferisce a Master, come si chiama? Fabio Master. Appunto, devo dire anche quello, non l'ho mai sentito, mai, una sola volta. Posso dire di averlo sentito? No, mai. Perché? Perché usciva anche lui con l'antennino, che ne so. Mentre invece parlava con tutti, parlava con Roberto, parlava con Claudio, parlava con tutti quelli della parte alta. E forse Gianni anche lo sentiva, io non lo so, ma qui non arrivava. No, io lo sentivo, sì, lo sentivo. Santiago 5 arrivava a 6, dai. Tanto cavani di Milano, se tale mattolene pone l'antenna come si deve. Oh, che da quando sono stato in Casanza mi hanno ritirato tutto. Così. Ohia, non l'avresti detto se fossi stato davvero. Perché? Come vergogna andare in Casanza? Va bene, Moriocchi. E lui? Va bene. Ebbè, bomboloide. Ciao Antonio, bombolo. Buonasera Giulio, buonasera anche a te.